Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Ci siamo un po'. Qua siamo dottoressa, infermiere, sì, giornalista, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, dottoressa, grazie. Buongiorno nuovo, spero che sia buono anche per te. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. E chissà, sicuramente qualcuno di voi all'ascolto aspetta proprio questo 2015 ormai vicino, perché sarà l'anno in cui andrà in pensione. Una pensione però, lo diciamo sempre qui a Cuore Denari, che rischia di essere sempre più attesa perché i tempi si allungano, ma anche sempre più povera perché l'assegno si alleggerisce. E non è un mistero che da questi microfoni vi arrivi in modo convinto il consiglio di pensare il prima possibile ad una pensione integrativa. Qualcuno ci avrà già pensato in passato, destinando ad un fondo pensione il proprio TFR, ma sia sui fondi pensione che sul TFR si sa ci sono delle novità in arrivo. L'ultima volta che ne abbiamo parlato erano bozze della legge di stabilità, oggi invece sono capisaldi della manovra finanziaria 2015 dello Stato italiano. Il TFR potremo decidere di averlo ogni mese in busta paga, mentre sui fondi pensione arriverà una tassazione un po' più pesante. Perché ci torniamo? Perché proprio in queste ore Assofondi Pensione, l'associazione che riunisce Confindustria, Confcommercio, Confservizi, Confcooperative, Lega Coop, AGC, CGL, CISL, UIL e UGL, senti qua che raffica di organizzazioni, Nicoletta. E non ti sei neanche inciampata un attimo, sembrava uno scioglilingua, brava. Un pochino sì. No? E, insomma, è tutta un'organizzazione Assofondi Pensione che rappresenta oltre 2 milioni di lavoratori iscritti ai fondi di categoria, ebbene è protagonista di una manifestazione che si sta svolgendo a Roma. Noi daremo voce ai protagonisti di questa iniziativa perché sono pronti a dare battaglia contro queste norme in quanto, a loro dire, minacciano lo sviluppo della previdenza complementare e il risparmio previdenziale dei contribuenti. Chiaramente, come sempre, vogliamo sentire anche la considerazione di voi ascoltatori su questo argomento. 800 24 00 24, tornate a raccontarci, se adesso l'avete capito meglio, come avete accolto la notizia dell'aumento della tassazione sui fondi di previdenza complementare. Continuerete a versare o in qualche modo questa novità vi farà riconsiderare le scelte fatte in passato? 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde sempre a vostra disposizione, come la mail di Cuore Denari. Quando non riuscite a intervenire in trasmissione, volete raggiungerci, scriveteci e noi al pomeriggio manderemo le vostre richieste ai vari esperti, li faremo lavorare. Per la pagina di Cuore invece torniamo a grande richiesta a parlare di reflusso gastroesofageo. Il nome la dice lunga sui sintomi di questa malattia che conosciamo bene per esperienza diretta o indiretta, dato che interessa una persona su 5, e che ha dato del filo da torcere anche al presidente Obama, che alle prese con un dolore violento alla gola nei giorni scorsi ha lasciato in fretta e furia la Casa Bianca per dirigersi in un importante ospedale militare degli Stati Uniti, dove nel giro di poco più di mezz'ora i medici hanno formulato la diagnosi. Così tutto il mondo ha saputo che non di mal di gola ma di reflusso, e per essere più precisi di infiammazione dei tessuti molli della gola dovuta ad un reflusso acido, soffre il presidente americano. Insomma, cara la mia bella Deborah, sì, dopo la prostata di Hollande, certo che la privacy per questi poveretti azzerata totalmente. Bene, è vero, ci tocca occuparci del reflusso di Obama e lo facciamo con piacere, perché questo disturbo non si presenta sempre in modo chiaro. Accanto ai sintomi classici, che sono acidità, bruciore, rigurgito, ce ne sono altri che con l'esofago e il cibo sembrano non avere nulla a che fare, per questo si chiamano atipici. Ve ne cito alcuno: dolore al al torace, tosse, raucedine, dolore nella glutizione, ma anche gengivite, afte e carie. Ne parliamo a partire dalle 11.45, ma se volete intanto prenotare il vostro intervento, 800 24 0024. ITFR in busta paga. ITFR in busta paga è una possibilità, è una cosa che divide gli italiani, esatto. Secondo i sondaggi sono 50 e 50. Esatto. Perché qui mi piacerebbe domandarlo a voi e dire: preferite avere ITFR... i soldi qui dove le signore si sbracciano? Faremo una cosa che di solito in burocrazia non si fa male: lasceremo al cittadino la libertà di fare come gli pare. Renzi lo domandava al pubblico di Barbara D'Urso, noi giriamo la domanda ai nostri ascoltatori, 800 24 0024, cosa farete o cosa non farete, insomma, con il vostro TFR? Preferite accumulare la liquidazione per avere un gruzzolo da parto, oppure per voi sarebbe meglio poter contare oggi su una busta paga un po' più sostanziosa? Peraltro questa sarà una facoltà, la nuova tassazione invece sui fondi pensione non è una facoltà, non è che si possa scegliere, ma verrà presumibilmente appunto applicata nelle novità che adesso vi racconteremo. Intanto voi scriveteci anche se volete al 349-238-6666 per i vostri sms, ma ci sono anche Facebook e Twitter. Torniamo a commentare un tema di stretta attualità sul quale avevamo promesso, Nicoletta, lo ricordiamo, di tornarci. Come ed per eccoci. Molti temi, esatto, perché naturalmente dopo le prime bozze della legge di stabilità qualche tema si va definendo un po' meglio, per cui quando avremo poi tutta la manovra completa da gennaio faremo tante puntate sulle questioni che hanno un impatto diretto sui nostri ascoltatori. Ci dà lo spunto per tornare su questo argomento, come vi dicevo prima, l'assemblea annuale di Assofondi Pensione che si sta svolgendo a Roma. Salutiamo subito i nostri primi due ospiti che abbiamo proprio letteralmente, brutalmente tirato fuori dall'assemblea, Nicoletta. Buongiorno a Michele Tronconi, presidente di Asso Fondi Pensioni, in passato lo voglio ricordare è stato presidente anche di Sistema Moda Italia, l'organizzazione che rappresenta gli industriali della moda e del tessile, e è stato uno dei tanti che ha contribuito anche a creare il fondo pensione di categoria che è Previ Moda. Tronconi, ho detto tutto correttamente? Più che corretto. Ottimo. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Già iniziata l'assemblea, presidente? Sta andando molto bene. Molta gente, proprio perché è un tema caldo. Guardi, io non starei a perdere tanto tempo sul TFR in busta paga, è una decisione del governo per sostenere i consumi, però ricordo che nei rapporti che stavamo avendo nel corso del mese di settembre, i primi di ottobre, col Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quel momento si diceva che se si fosse andato avanti con la TFR in busta paga avrebbero dato degli ulteriori incentivi fiscali alla previdenza complementare. Invece si è fatto tutto il contrario, cioè si è andato ad aumentare la tassazione sui rendimenti, che quest'anno era già stato aumentato a giugno dall'11 all'11,50, è stata portata al 20%, poi speriamo che dall'iter parlamentare si raggiunga una via di mezzo. Come ulteriore handicap, questa misura è stata addirittura resa retroattiva, cioè ai rendimenti del 2014, e questo è veramente uno schiaffo alla previdenza integrativa, ma anche uno schiaffo a tutti i cittadini, come tutte le volte che si contravviene all'articolo 73,3 della nostra Costituzione, e cioè si fanno delle leggi retroattive. Esatto, e se dovessimo proprio fare un po' una gerarchia di tutti gli aspetti discutibili di questa decisione, probabilmente questo è nelle prime posizioni. Presidente Tronconi, quali sono, poi presenterò anche l'altro ospite, i numeri di Asso Fondi Pensione, quanti fondi, tra l'altro poi lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, negoziali rappresentate? Noi rappresentiamo 34 fondi negoziali, si dice negoziali perché sono i fondi alimentati dalla contrattazione collettiva e istituiti dalle parti sociali, quindi sindacati e associazioni datoriali, sulla base delle leggi che si sono accumulate a partire dal 1992-1993, e hanno questo grande vantaggio che gli iscritti non soltanto devolvono parte del loro TFR maturando, ma proprio perché iscritti e proprio perché questo è quello che si decide nei contratti collettivi, vedono arrivare da parte dell'azienda anche un contributo del datore di lavoro. Del datore di lavoro, esatto. E questo è stato uno degli aspetti appunto che ha convinto anche magari i lavoratori un po' più dubbiosi e scettici su questa scelta invece di sottoscrivere un fondo pensione, perché appunto chiaramente il versamento mensile diventa un pochino più sostanzioso e poi quando arriva capitale finale accumulato è una cifra che insomma magari è anche significativa, no? Presidente Tronconi. Sì, lei consideri che Cometa ha fatto uno studio per cui il confronto tra chi fa maturare il TFR in azienda e chi invece lo devolve al fondo pensione, anche grazie appunto al contributo aziendale, dopo 30 anni ha una differenza in termini lordi del 25%. Siccome poi la tassazione è diversa tra la liquidazione del TFR e la liquidazione invece del fondo pensione, questo 25% diventa addirittura il 30% piuttosto che il 33%, quindi è un terzo in più che il sottoscrittore si porta a casa in termini di montante destinato per la rendita pensionistica. Allora mi ha dato un assist perfetto, Tronconi, perché visto che ha citato Cometa, direi che possiamo sentire, se lei gentilmente gli passa il telefono, sveliamo il mistero ai nostri ascoltatori. Sono in c'è un posto, staffetta, praticamente. C'è una staffetta telefonica stamattina per questioni appunto di linee un po' problematiche, abbiamo utilizzato questa modalità per sentire i nostri ospiti che sono insieme in una sala in un locale appunto di Roma. Può passare gentilmente il telefono Tronconi a Maurizio Agazzi, che salutiamo, direttore di Cometa, che è il più grande fondo pensione negoziale italiano, quello della categoria appunto dei metalmeccanici, i lavoratori dell'installazione di impianti e settori affini, il settore orafo, argentiero, industria, insomma il fondo probabilmente appunto, come dicevo, per dimensioni e per iscritti più importante d'Italia. Agazzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ci piacerebbe appunto, io ho raccontato due numeri, avere un biglietto da visita un po' più dettagliato del vostro fondo pensione, che è uno anche dei preesistenti, è nato prima, ben prima della riforma della previdenza integrativa del 2005. Le vorrei chiedere, Agazzi, alla luce anche un po' della crisi, a che punto siamo con adesioni nuove, sottoscrizioni nuove e come state monitorando anche i vostri aderenti? Che percezione c'è relativamente a queste nuove misure? Siete sicuri che i lavoratori che aderiscono a Cometa siano poi così preoccupati dalla riorganizzazione fiscale? Credevo mi interrogasse sul reflusso gastrico, sull'argomento. Ragazzi, è un nostro grande fan, te lo devo bravo, dire. Ma qualche domandina gliela farò per vedere se lei nelle puntate precedenti è stato attento. Allora, Cometa, dopo passiamo al reflusso. Sì, assolutamente. No, io devo dire che preoccupa più il segnale che questo governo sta dando più che gli effetti pratici. Io credo che i lavoratori siano molto più maturi e molto più attenti al loro risparmio e al loro futuro. È chiaro che stiamo vivendo tutti una crisi economica e occupazionale spaventosa che di fatto non agevola nuove adesioni e ci fa anche tornare indietro in termini di uscite, soprattutto per crisi aziendale, per interruzione del rapporto di lavoro, per cassa integrazione. Detto questo, il fondo continua a vivere di una raccolta importante, circa 1 miliardo di euro l'anno dei contributi che entrano, siamo vicini ai 9 miliardi di patrimonio. Continuiamo a vedere comunque una grossa attenzione e anche nuove adesioni dei lavoratori che hanno un posto di lavoro e anche un aumento della contribuzione. Io credo, mi auguro, anche perché al di là delle scelte individuali, doversi prendere il TFR in busta paga è un ulteriore segnale di una crisi economica e di capacità di spesa da parte dei lavoratori, certo, che i lavoratori capiscono. Per noi è importante informare correttamente sugli svantaggi al di là del sistema pensionistico, di regalare a fronte di una presunta libertà circa 2.000 euro di maggiori tassazione per prendere pochi denari in busta paga. Ecco, ma secondo lei, Agazzi, appunto, adesso a prescindere dal fatto che lei ha detto chi aderisce alla previdenza complementare lo fa, ci ha lasciato capire che lo fa per convinzione, per cui la rimodulazione fiscale magari non comporterà un ritorno indietro, ma probabilmente potrebbe portare molte persone a considerare se aderire o meno adesso al sistema di previdenza integrativa. Lei che dice? Comunque magari adesso anche la tassazione incide, anche se poco, comunque è un inasprimento fiscale, l'ennesimo, che va naturalmente a condizionare poi anche le scelte di risparmio e di investimento delle famiglie. Ma io distinguerei tra psicologia, tra impatto psicologico, tra segnale e messaggio e tra effetti pratici. Che anche l'incremento della tassazione, che ripeto, è sui rendimenti, non sulle prestazioni. Quindi il famoso 20% è una tassazione. Ci spieghi bene, così gli ascoltatori sanno di che cosa si tratta. Allora, i rendimenti prodotti dal fondo beneficiano o maleficiano di una tassazione che fino allo scorso anno era dell'11% in dare o in avere, nel senso che se il fondo perde si matura un credito d'imposta pari all'11%, se il fondo guadagna si pagano tassazioni sui rendimenti pari. E ogni quanto viene applicata questa tassazione dell'11% annualmente? Quindi noi abbiamo l'estratto conto, sappiamo che tipo di performance ha avuto. Si fa mese per mese, la quota è già netta al netto della tassazione. Perfetto. Naturalmente con una compensazione, perché laddove si realizzassero delle perdite sui rendimenti si matura un credito dell'11%. Il governo ha aumentato all'11,5% negli scorsi mesi e adesso ha deciso di portarla a una aliquota che viene definita 20%, ma che non è esattamente il 20%, perché è data dal cumulo tra 20% di tassazione sugli investimenti e 12,5% di tassazione sugli investimenti in titoli di Stato. Quindi diciamo che ne esce, considerando le asset allocation, cioè la composizione degli investimenti, è anche eterogenea, esce una tassazione media del 14%. Allora, il 14% in sé non è una tassazione che spinge a riconsiderare la previdenza complementare, è un segnale brutto, è un segnale di disattenzione, è un segnale che va in controtendenza a quello che è una raccomandazione a livello europeo di sostenere il secondo pilastro della previdenza complementare. Chiarissimo. E poi Agazzi, aggiungo e la interrompo qua di nuovo brutalmente, lei era con me tra il 2006, l'inizio del 2006 e il 2007, quando abbiamo fatto quante puntate? Il semestre del silenzio assenso, se lo ricorderà, no? Per anche cercare di spiegare un po' bene cosa stava cambiando, come funzionavano tutti gli strumenti di previdenza integrativa, perché non ci sono solo i fondi negoziali, ci sono anche i fondi aperti, ci sono anche i piani individuali di previdenza. Tanto lavoro fatto in quel periodo, non solo naturalmente da noi che ce lo riconosciamo dal punto di vista della comunicazione, ma anche dai sindacati sul territorio, dagli uffici del personale delle aziende, per poi improvvisamente vanificare un po' anche tutto un percorso che è stato molto complesso, perché le persone in Italia, i lavoratori, non erano assolutamente preparati ad una rivoluzione pensionistica che avesse un connotato privato. Ragazzi, mi permette innanzitutto di ringraziarvi per la costanza con cui la vostra radio fa informazione corretta. Vi deve essere dato atto, lei ha ricordato che io c'ero anche qualche altro anno che fa, quindi c'è un continuum da parte vostra nell'informare. Sicuramente abbiamo fatto fatica a spiegare una riforma per certi versi radicale nell'immaginario dei lavoratori. Esatto, poi tanti fondi oggi c'erano già. Questi segnali sono dei segnali pesanti, proprio perché vanno a incidere su un terreno che avevamo appena seminato e del quale stavamo raccogliendo frutti. Non va dimenticato che tra l'altro eravamo impegnati anche a considerare il nostro apporto con i nostri investimenti alla crescita dell'economia del paese. Certo. Ed è questo che rende paradossale e tipico del reflusso gastrico vede la legge di stabilità. Ragazzi, è l'ospite ideale per Cuore Denari, perché Lega, tu, ti dirò che è a Milano e non appena adesso torna da Roma lo invitiamo qua in studio e vedrai che ti piacerà. Ci facciamo anche un bel Helicobacter pylori. Esatto, dai. Non vorrei però che Michele Tronconi fosse geloso, richiedo ad Agazzi di passare il microfono al presidente di Assofondi Pensione, perché io vorrei capire. Chiaramente la discussione di questa mattina non sarà sterile e finalizzata ad ottenere il passaggio in radio o un titolo appunto di un grande giornale. Presidente Tronconi, so che voi questa mattina avete intenzione di annunciare anche delle iniziative concrete. Dove porterete questa battaglia contro il nuovo regime fiscale sulla previdenza complementare? Nessuna gelosia, visto che diciamo le stesse cose, è un grande risultato. Guardi, noi abbiamo due obiettivi. Da una parte farsi rispettare e se venisse mantenuta l'ipotesi della retroattività della maggiore tassazione sui rendimenti, ovviamente l'associazione guiderebbe un'azione di vaglia di legittimità in sede nazionale, cioè a livello costituzionale, che presso la Corte di Giustizia europea, perché già in altre occasioni i governi governi che si sono succeduti quando hanno imposto una retroattività tributaria, poi si sono visti cassare la norma. Ma questo proprio per rispetto della dignità che noi dobbiamo anche ai nostri iscritti. Detto questo, dobbiamo anche trovare il modo di ricostruire un regime di collaborazione col governo. Evidentemente c'è stato qualche malinteso, hanno preso la strada sbagliata, è nostro dovere spiegare che il welfare in un mondo dove si invecchia fortunatamente di più va costruito su due gambe, quindi primo e secondo pilastro. Il secondo pilastro va comunicato meglio e abbiamo bisogno che col governo si faccia comunicazione. Esatto. Il nostro dovere, come diceva Gatti, di riportare un po' di questo risparmio previdenziale degli investimenti a medio e lungo termine di cui ha bisogno il nostro paese. Poi tra l'altro c'è ancora un grandissimo lavoro da fare tra la platea dei giovani che oggi fanno molta fatica perché chiaramente hanno delle condizioni di lavoro precarie, spezzettate, quindi anche il più sensibile verso la forma di previdenza integrativa oggi non riesce a sostenere un adeguato piano di versamenti. Spesso e volentieri, Nicoletta lo sa, sono mamme e papà che ci chiamano, che ci chiedono aiuto su come fare per alimentare uno strumento di previdenza integrativa. Peraltro c'è un dato su cui Tronconi so che ci teneva molto a fare un commento: solo il 15% dei giovani sotto i 35 anni ha una previdenza integrativa. Cuore e denari. E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più. Molti ne soffrono, ma pochi se ne occupano. I più sopportano e convivono tortocollo con bruciore di stomaco e rigurgito. Sono questi i sintomi classici del reflusso gastroesofageo, malattia di cui torniamo a occuparci oggi a partire dalle 11.45, quindi 800 24 0024 se fate parte di quegli 11 milioni di italiani che ne soffrono e volete saperne di più. Ma oggi andremo oltre, parleremo anche di dolore toracico, raucedine, bruciore alla gola, quello di Obama per intenderci, tosse, una batteria di sintomi che può essere una spia di reflusso. Allora restate con noi, tra poco ci raggiungerà il professor Dino Vaira, gastroenterologo e professore universitario di medicina interna dell'Alma Mater di Bologna. Se potessi avere 1.000 euro al mese. Stamattina stiamo tornando per i denari sul tema che sta creando molte domande fra i lavoratori appartenenti a settori e categorie diverse che negli anni passati hanno scelto di sottoscrivere un fondo pensione e dal 2005 in avanti di alimentarli con il TFR che stanno maturando. Per questi lavoratori sono in arrivo delle novità, e cioè sulla rampa di lancio contenuto nella legge di stabilità 2015 c'è il provvedimento che sancirebbe l'aumento della tassazione delle rendite dei fondi, che passerebbe dall'attuale 11,5% al 20%, aumento previsto tra l'altro, ricordiamolo, anche per le casse di previdenza delle professioni. In tal caso la tassazione appunto delle rendite finanziarie, ora al 20%, salirà al 26% come per qualsiasi altro investitore privato, tassazione che a quanto pare nelle intenzioni del governo di farla retroattiva tutto il 2014. Cosa ne pensate? 800 24 0024, molti ascoltatori diciamo che ci raccontano un po' i loro dubbi sul fatto di alimentare oggi la previdenza complementare, perché non sono poi convinti più di tanto che quando sarà il momento di andare a riscattare queste posizioni e di trasformarle in rendite avranno granché. Beh, questo significa che naturalmente avete fatto, speriamo, una scelta consapevole. Se non ci si crede non è un obbligo per nessuno, in caso contrario si può fare una chiacchierata molto franca con l'istituzione con il quale il fondo pensione si è aperto e sottoscritto e fare delle domande molto specifiche sulle promesse di rendimento naturalmente di questi strumenti. Io vorrei sentire anche Michele Tronconi, presidente di Assofondi Pensione, su questo cosa ne pensa. Tra l'altro voi continuate anche, presidente, a scontrarvi con i dubbi dei lavoratori che non hanno nessuna intenzione di farsi la previdenza integrativa? Due risposte. Innanzitutto sui rendimenti effettivi. Nei primi 9 mesi di quest'anno il rendimento medio dei fondi pensione è stato del 5,8%. E qui il riferimento va fatto al benchmark amministrativo, che è la rivalutazione del TFR, che quest'anno, proprio perché siamo in una fase di deflazione, è solo dell'1%, quindi c'è un rendimento di 4,8 punti in più rispetto al fatto di lasciare il TFR in azienda, senza poi dimenticare che al fondo pensione arriva anche il contributo aziendale e quindi in termini di valore sono soldi in più se si sceglie la previdenza complementare. L'altro aspetto, prima avete ricordato questo dato importante, soltanto il 15% dei lavoratori sotto i 35 anni aderisce alla previdenza integrativa. Evidentemente ci sono dei timori, ma c'è anche la sensazione che il fondo pensione sia un salvadanaio dove si può solo mettere e non togliere in termini di eventuali anticipazioni. Ecco, questo è un errore, le anticipazioni sono possibili. Certo. Probabilmente si può addirittura intervenire a favore in una fase di crisi per favorire le eventuali anticipazioni quando il lavoratore ne abbia bisogno. Tra l'altro, proprio a proposito di temi di cuore e denari, ci sono degli ascoltatori che ci raccontano che spesso riscattano una parte per sostenere delle spese mediche. Il dentista, esatto. Un ascoltatore ci scrive. Infatti è proprio contemplata questa finalità, no, Presidente Tronconi, ricordiamolo, per cui non è un salvadanaio rigido, una cassaforte che non si può più riaprire nel corso della vita del lavoratore. Esatto, è questo che va comunicato e su cui secondo noi si può lavorare anche in termini normativi, ma proprio per costruire un welfare che purtroppo non può più basarsi soltanto sul primo pilastro e quindi sulla pensione che arriva dall'INPS, che funziona a ripartizione. Noi abbiamo bisogno di un sistema che funzioni a capitalizzazione individuale e il bello della previdenza integrativa negoziale è che le parti la sostengono, le aziende mettono dei soldini in certo. Presidente Tronconi, la lascio tornare in assemblea perché altrimenti la vengono a prendere con la forza e non è molto carino da parte nostra che la tratteniamo qua, così come saluto anche Maurizio Agazzi, grazie ad entrambi per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie. Fateci sapere se avrete delle novità da questa assemblea e intanto loro passano il testimone ad un altro ospite con il quale facciamo degli ultimi commenti. Saluto e ringrazio Fabio Ortolani, presidente di Fonchim, il fondo dei lavoratori dell'industria chimica. Presidente, benvenuto. Buongiorno, grazie. Le do il benvenuto con un paio di commenti di alcuni ascoltatori, poi faremo anche in questo caso il biglietto da visita di questo grandissimo fondo di previdenza integrativa, fondo chiuso, perché anche in questo caso è di una categoria particolare appunto di lavoratori, e vedremo un po' anche tra i lavoratori di questo settore che sentimento c'è rispetto a queste novità fiscali in arrivo. Roberto da Napoli, ce l'abbiamo fatta. Sì, buongiorno. Ci vuole ancora bene, anche se l'abbiamo fatta aspettare così tanto. Sì. Ci dica. Mi sentite? Buongiorno. La sentiamo, sì. Buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre, da mattino tutto. Grazie. Grazie. Allora, io sono un lavoratore da meccanico, oltre all'altro come ITA, riesco a gestirla bene, ma per quanto riguarda il TFR, posso dire che l'ho preso 3 volte nella mia vita lavorativa di 26 anni, e c'è sempre una confusione, c'è anche una confusione sulla busta paga. Allora io mi chiedo, essendo soldi nostri, voglio anche perdere una percentuale in più di tassazione, sono d'accordo, ma la lasciasse sullo stipendio regolarmente, chi gli serve la spende, chi non gli serve la mette in un fondo pensione e si costruisce la sua pensione, perché a gestire anche questa TFR sta diventando veramente una cosa complicata. Oggi in questo paese non è più sicuro niente, non è più, io posso capire solo questo a 48 anni, che in questo paese fai un contratto con lo Stato e non è più vero niente. Guardi, allora, Roberto, è la stessa cosa che ha detto il presidente di Assofondi Pensione, per me questa è una sofferenza, quasi è una sofferenza. È del tutto condivisibile quello che... Il problema è che poi questo TFR in realtà, più prima di darlo anche direttamente in busta paga ai lavoratori, lei sa benissimo che molte piccole aziende si finanziano con questa liquidità che hanno appunto in cassa, per cui tutto sommato molte piccole aziende non hanno la forza finanziaria, la capacità finanziaria necessaria per dare tutto al lavoratore. Per cui qua si aprirebbe tutto un altro problema che è molto consistente. Lorenzo da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Io sono un dipendente pubblico e sono al bivio perché mi trovo di fronte alla scelta se aderire o non aderire a una previdenza integrativa. Il mio fondo di riferimento penso che sia quello che si chiama ora il Sirio Perseo. Conosco un po' il funzionamento, ma chiaramente, come il precedente ascoltatore, io sono molto preoccupato perché la mia paura è che prendo una strada, faccio questa scelta importante e poi dopo il governo cambia le carte in tavola per fare cassa. E questo chiaramente, dato che il TFR, dovrei vincolare il TFR più almeno mi pare un 1% del mio imponibile lordo annuo, per costringere l'azienda, diciamo costringere il termine non è appropriato, però insomma per mettere in condizione anche il mio datore di lavoro di versare un altro 1%, quindi sarebbe una scelta comunque importante. Infatti, una scelta per la quale Lorenzo lei si deve prendere tutto il tempo necessario, non deve sentirsi il fiato sul collo di nessuno, fare molte domande e se vuole ci scriva, magari noi le aiutiamo a trovare un consulente finanziario, magari indipendente se vuole, sul territorio al quale fare tutte le domande del caso. E non, appunto, ribadisco, prima di mettere la firma su un contratto abbiamo il diritto di prenderci tutto il tempo necessario. Ortolani, purtroppo le devo dare solo un minuto e mezzo di tempo, però mi pare che grazie anche all'aiuto della testimonianza di Lorenzo possiamo ribadire alcuni concetti. Il tema è proprio questo, si fanno dei patti con lo Stato e in una fase di crisi come questa purtroppo non vengono rispettati, ma non vanno tanto bene queste cose, giustamente. Sì, sono d'accordo. Le riforme che ci sono state in tutti questi anni hanno fatto sì che le interrogativi che si pongono i nostri ascoltatori, i suoi ascoltatori, che sono anche i miei, ovviamente sono tali e rimangono tali, cioè il patto generazionale che c'è, che lo Stato ha concluso con le forze sociali, cioè, sarà mantenuto o no? Fino ad oggi la dimostrazione è che questo patto non viene mantenuto, quindi gli interrogativi si pongono e questo fa sì che obiettivamente chi deve pensare al proprio futuro dovrà pensare a un futuro che sarà con un patto che sarà mantenuto, quindi ferreo oppure lasco. A questo punto tutti pensano che obiettivamente è un patto lasco. E infatti, Presidente Ortolani, fra i chimici che sensazione c'è? Lei che cosa percepisce fra i lavoratori di questo settore che hanno sottoscritto FOMCHIM negli ultimi anni? Secondo lei riconsidereranno la scelta della previdenza complementare in virtù del cambiamento fiscale? Guardi, il fondo che presiedo ovviamente è uno dei fondi che manifesta delle particolarità. Noi abbiamo l'80% delle adesioni di tutti gli addetti della chimica, chimico-farmaceutica, mineraria, coibenti, eccetera, eccetera, dell'intero comparto italiano, quindi obiettivamente ne risentirà. In che numero, in che sostanza, questo non lo possiamo dire. Abbiamo fatto soltanto degli studi, abbiamo messo sul nostro sito, anzi dico ai nostri iscritti di andare a vedere il sito, una simulazione con il punto attuale del 20%, chi prende il TFR se ne ha beneficio o malefici, più malefici che benefici, perché c'è una maggiore tassazione, però questo dipende dalla situazione personale. Certo. Noi pensiamo che obiettivamente chi ne ha più bisogno e quindi è costretto a toglierlo, chiaramente essendo volontario, questo, però ovviamente è come qui, si mangia oggi l'uovo e non si pensa alla gallina domani. Però insomma i lavoratori stanno drizzando le antenne, giustamente, e qualcuno ha la tentazione di riconsiderare scelte fatte in passato. Presidente Ortolani, noi la dobbiamo salutare, ma anche per lei c'è l'impegno dell'Assemblea in questo momento, la ringrazio molto per essere stato con noi. Ci risentiamo quando avremo le bocce ferme su questo tema. Poi hai sentito, FONCHIM è proprio il fondo pensione di Cuore e Denari, perché è quello dell'industria chimica e farmaceutica. Allora, intanto grazie al professor Ortolani, ci sentiremo presto e auguri. Iniziamo a fare gli auguri, perché brava, ormai ci siamo, l'otto è passato. Io ho sempre detto, quando negli anni passati facevo salvadanaio, dall'8 dicembre in avanti cominciavo a sentirmi autorizzata a fare gli auguri. White House spokesman revealing that the president had been complaining of a sore throat and that his physician suggested he have some tests done there. Let's go straight to our Sunland Sarfati. She is standing by. È arrivato il nostro momento. Smascheriamo il reflusso, perché spesso si presenta sotto mentite spoglie, come è successo a Obama. Ma in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Dino Vaira, quindi stiamo assolutamente tranquilli. Gastroenterologo, professore universitario di medicina interna dell'Alma Mater di Bologna. Professore, bentornato. Buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Professore, è una malattia che ha due facce, una talmente chiara da prestarsi all'autodiagnosi, l'altra subdola, tale da mettere a volte in difficoltà anche il medico. Magari solo due facce, ne ha più di due. Ad esempio, professore? Per esempio, scopriamole tutte. Per esempio, l'asma, per esempio, la tosse. Per esempio il mal di gola. Il mal di gola, il dolore che porta questi poveri pazienti con la velocità della luce a chiamare il 118 e andare in pronto soccorso con il timore di avere un infarto e, ringraziando il cielo, hanno tra virgolette un banale reflusso rispetto alla possibilità di avere un infarto? Allora, noi andiamo subito in questa seconda parte di trasmissione a sentire i nostri ascoltatori che ci raccontano se hanno già ricevuto una diagnosi di reflusso. Chiederemo naturalmente al professor Vaira se ci sono delle novità nel trattamento del reflusso e soprattutto di darci dei consigli da grande medico, professor Vaira. E chiediamo anche agli ascoltatori di chiamarci se hanno dei sintomi sospetti. Il professor Vaira ne ha elencato alcuni, possiamo aggiungere anche una sensibilità ai denti, la carie, come molti ascoltatori. La risposta è sì. Vero? Quindi osservate, ispezionate anche la vostra bocca. Bruno, buongiorno, ci chiama da Milano, 800 24 0024. Benvenuto Bruno, auguri da Cuore buongiorno. Denari intanto. Grazie, che partano molto buono. Beh, i sintomi che ha espresso il dottore, diciamo, più o meno sono i miei. Nel senso che da qualche mese, sì, dopo mangiare, dopo cena specialmente, ho una sensazione proprio di come se avessi il cuore in gola, sì, mi viene da tossire, e questa sensazione si calma dopo che ho fatto dei respiri profondi, quindi allargo i polmoni e cerco di respirare profondamente. È come se mi pulsasse anche alle vie alte respiratorie, intorno al collo, no? E in effetti la paura è quella di andare a pronto soccorso per dire: ma che cosa c'ho? Che cosa succede? Ieri ho incontrato il mio medico curante e proprio toccate fuga, perché adesso sono tutti presi con le ricette, e gli ho detto: guarda, c'ho questa sensazione, sì, ma adesso io non lo posso vedere, aspetta un attimo, sì, che cosa c'è? Poi alla fine sono andato via perché non... E ha chiamato Cuore Denari e ha trovato il professor Vaira. Professor Vaira, allora, diagnosi telefonica lo sappiamo, non se ne possono fare, ma mi sembra che Bruno abbia descritto la situazione con dovizia di particolari. Qual è il messaggio che Bruno può portarsi a casa da questa incursione a Cuore Denari? Il messaggio che può portarsi è innanzitutto stare attenti alla dieta e stare attenti all'introduzione di acqua. Dietro questa possibilità di una malattia da reflusso c'è fondamentalmente la possibilità del fatto che l'acido dallo stomaco ritorni. C'è qualcuno che la cerca, professor Vaira, oltre a Cuore Denari. Noi oggi con i telefoni è un po' così. Siamo a Sant'Ursula, quindi è normale. Sì. Bloccate il telefono. Già fatto. Le dicevo, la cosa fondamentale è questa. Volevo chiarire a Bruno, ma a Nicoletta e a tutti gli ascoltatori: l'esofago, che è il tubo che collega la bocca allo stomaco, è stato creato da quello lassù, che ovviamente ne sa un miliardo più di noi, in modo che passasse il cibo, quindi non è deputato a nessun tipo di assorbimento. Cosa voglio dire? Voglio dire che basta uno sbuffetto, mi passi il termine, di acido che dallo stomaco risale all'inizio dell'esofago, e il povero esofago ha come un elettroshock, come una scossa elettrica. E siccome alla fine dell'esofago c'è questa valvola che si chiama cardias o sfintero esofageo inferiore, che è molto vicino al ventricolo sinistro, che è quello che ci fa battere il nostro cuoricino quando ci innamoriamo, ma quando ci spaventiamo, ecco il risultato della sintomatologia di Bruno. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di utilizzare dei banali antiacidi, e ovviamente abbiamo bisogno sempre di escludere una patogenesi cardiologica. Cosa voglio dire? Che in questi casi è assolutamente necessario fare un elettrocardiogramma, fare degli enzimi cosiddetti di necrosi cardiaca, cioè la famosa curva della troponina, quindi escludere in maniera categorica che non è il cuore responsabile, e tirare un sospiro di sollievo quando si constata che la colpa è del professor Vaira, e quindi la colpa è dello stomaco e dello esofago. Bene, professore, noi oggi vogliamo rivolgerci a tre categorie di persone. Vogliamo parlare a chi soffre di reflusso saltuariamente, può capitare, tra l'altro si avvicina a noi pranzi e le cene di Natale, si mangerà un pochino di più, alimenti un pochino più grassi, magari, no, un po' di reflussino lo mettiamo in conto. Ci rivolgiamo naturalmente a chi ne soffre spesso ma con sintomi leggeri, e certamente vogliamo anche occuparci di chi ne soffre in modo cronico e presenta qualche complicanza. 800 24 00 24, abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione a quelli che abbiamo definito sintomi atipici del reflusso reflusso, che come dice il nome, no, viene anche chiamata la malattia del tornar su. Il cibo torna, risale nell'esofago, e l'esofago, che non è fatto per raccogliere, no, il cibo che torna su, si irrita e ci dà dolore, tutta quella sintomatologia che noi conosciamo bene. Ma ci sono anche altri sintomi, abbiamo preso spunto dal mal di gola di Obama. E così andiamo a Perugia, ci chiama Francesco. Buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Io ho una storia, diciamo, di reflusso da molti anni, che inizialmente si è presentato con i soliti sintomi, acidità, dolori al petto, eccetera, che però ho risolto con i vari farmaci, quindi inibitore di pompa, eccetera. Ultimamente però, durante quest'anno, ho avuto un episodio, diciamo, di bronchite, polmonite, e dopo di questo, che comunque aveva prestato molto tosse con catarro, eccetera, una volta risolto questa, però è rimasta una tosse con il catarro, e parliamo di 4-5 mesi che praticamente tutti i giorni ho questi episodi di tosse. Il problema è che, parlando con il pneumologo, mi dice che dal suo punto di vista è risolto la bronchite, la polmonite, che quindi mi dice potrebbe essere il reflusso, mentre se vado dal gastroenterologo mi dice che potrebbe essere il discorso dei bronchi e bronchite, eccetera. Insomma, quindi, Francesco, diciamo, è nella situazione della pallina da ping pong, palleggiato da uno specialista all'altro, situazione particolarmente spiacevole, anche stressante, anche perché poi più medici senti, più la confusione aumenta. Professor Vaire, d'accordo con me? Come per gli avvocati, mia cara. Detto questo, è colpa sicuramente del professor Vaira, non del pneumologo, ovvero del gastroenterologo. Perché, professore? Perché al 90%, una volta che noi escludiamo un fatto bronchitico, polmonite, al 90% è colpa mia nel senso della gastroenterologia. Se non abbiamo, se non riusciamo a togliere questa sintomatologia, a curarla nel modo adeguato. Assolutamente, vuol dire che noi non facciamo bene il nostro mestiere. Ecco, allora, ma noi professore, dobbiamo interromperci, ritorniamo subito dopo, lei resti lì con noi. 800 24 00 24, reflusso e dintorni. Cuore e denari. Allora, l'acida è quella che è sempre un po' nervosa, è quella che non gli va mai bene niente, sempre è quella che non si può fare questa, ci sono delle regolamentazioni da rispettare, capito? È mai vietato, Dici che siamo noi? Per quale motivo tu pensi che ci meritiamo questo appellativo? No, dai. Siamo allora, noi dolcione. Parliamo di reflusso, che non è sempre acido, perché il reflusso può essere tosse, dolore nella deglutizione, senso di oppressione dolorosa al torace, ma anche gengivite, carie, infiammazioni della mucosa, perdita di smalto sui denti. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Vaira. Professore, come facciamo ad arrivare ad una diagnosi certa, soprattutto quando il reflusso si presenta con dei sintomi che sembrano così lontani dall'esofago e dalla risalita del cibo? Lo sa che questa è una delle pochissime diagnosi che fa il medico di base e che non ha bisogno di nessun professor Vaira, di nessuna università? Sì. Voglio dire che la malattia del reflusso gastroesofageo viene diagnosticata in primis dal medico di base, perché è veramente tipica, molto più tipica rispetto alla gastrite. Voglio aggiungere che, per esempio, la gastrite non dà la tosse, la gastrite non dà l'asma, la gastrite non dà problemi di affito, di gengivite, per cui il medico di base attento può tranquillamente porre diagnosi di malattia del reflusso gastroesofageo basandosi solo sui sintomi. Ma professore, non sempre il reflusso viene diagnosticato, diciamo così. E allora, che cosa succede se questi sintomi non vengono inquadrati e quindi la persona magari non trova una spiegazione della sua tosse, di questo senso di oppressione, di questa difficoltà a deglutire, si sveglia di notte, perché anche il reflusso può svegliarci di notte, ci sembra che ci manchi un po' il fiato. Alla lunga l'esofago ne soffre, quali sono le possibili conseguenze? La risposta è sì, infatti questi poveri pazienti girano tutti gli specialisti, in particolare gli otorini, poi i pneumologi, poi i dentisti, poi i cardiologi e dulcis in fondo arrivano da noi, che siamo gli unici veri responsabili. Quindi quello che lei dice è maledettamente vero. Lo so. Per per cui dobbiamo assolutamente identificare questa tipologia particolare dei sintomi extradigestivi del reflusso gastroesofageo. Allora, abbiamo i nostri ascoltatori. Pronti? Che andrei a sentire. Certamente. E poi chiederemo al professor Vaira, così rispondiamo ai tanti messaggi, se la persona che ha reflusso è in qualche modo costretto ad assumere farmaci a vita o ci sono delle alternative oltre alla correzione dello stile di vita, che però sembra non in tutti i casi. Naturalmente il sovrappeso, una dieta ricca di grassi facilita e favorisce, ma non sempre con la correzione dello stile di vita, ci scrivono alcuni ascoltatori, si arriva a liberarsi da questa sintomatologia fastidiosa. Dove vuoi andare, Deborah? Cominciamo con Lorenzo, perché ci vuole chiedere se il reflusso preferisce determinati cibi o altri. Lorenzo, benvenuto da Padova. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Niente, a me capita di quando mangio la pizza verso le 3-4 di notte avere questo rigurgito molto acido che risolvo poi con del bicarbonato, e mi capita solo con la pizza, cambiando anche pizzerie diverse sia da sport sia le cose. Insomma, la pizza con Lorenzo non va d'accordo, o perlomeno il suo stomaco e il suo non gradisce. Dottor Vaira, professor Vaira, ci sono degli alimenti che sono più insomma incriminati di altri, che favoriscono questo problema? La qualità degli elementi che mettono in queste meravigliose pizze, che sono sempre più scadenti, dal pomodoro a qualunque altro tipo di cibo, mettono degli ingredienti così scadenti che il minimo che possa succedere, come succede a Lorenzo, è di avere il reflusso gastroesofageo. Quali sono, prendendo la pizza, gli ingredienti della pizza che possono in qualche modo dare fastidio a Lorenzo? Il tipo di farina, il pomodoro, ma anche il pomodoro in genere, o è la qualità del pomodoro, è proprio l'acidità del pomodoro che... In realtà, nel caso della pizza, lo so che adesso mi farò una cattiva fama, è quella salsa che utilizzano la maggior parte dei pizzaioli, che non va bene, che non ha nulla a che fare con il pomodoro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, professor Vaira, non entrerà più in nessuna pizzeria, o solo in delle pizzerie che utilizzano come si deve, ma sono tante, il pomodoro fresco e buono. Quindi scegliete. L'altra possibilità è il famoso olio piccante, che tanto piace a chi va a mangiare la pizza. L'altra possibilità ovviamente sono il pepe, e l'altra possibilità sono gli irritanti in genere. Come dire, la pizza è l'ideale per scatenare, tra virgolette, un reflusso gastroesofageo. È inutile dirle che se uno ovviamente è in perfetta forma fisica e alludo al peso, la pizza la può mangiare senza nessun tipo di problema. Oppure la mangia senza pomodoro, come suggerisce Claudio, perché lui ha lo stesso problema di Lorenzo, ma non c'è solamente la pizza. Professor Vaira, bella domanda. Il lievito, professor Vaira? Il lievito non influenza tanto il reflusso gastroesofageo, ma influenza più lo stomaco. Ma ricordiamoci che questi due organi, l'esofago e lo stomaco, sono tra loro comunicanti, quindi non possiamo pensare come se fosse stomaco e fegato e sono due organi completamente diversi. Quindi questo tubo che ci li collega ovviamente fa sì che c'è, passatemi il termine inglese, overlapping, cioè una commistione di sintomi. Allora, intanto i nostri ascoltatori al 349-238-6666 ci sono scatenati è vero, per suggerire al nostro Lorenzo alternative alla classica pizza. E c'è chi suggerisce di provare una pizza integrale con lievito madre, senza pomodoro e mozzarella, non diventa neanche più una pizza, però, focaccetta. Vabbè. Oppure alcuni ascoltatori, che uno in particolare, che suggerisce che più che al pomodoro potrebbe essere un'allergia al grano, come è capitato. Ma mi staccherei un attimo dalla pizza per chiedere al professor Vaira se i farmaci che vengono prescritti dal medico per curare il reflusso, mi stavo distraendo un attimo, guardavo Deborah, devono essere assunti a vita oppure ci sono delle novità. Questo questa è una domanda molto importante. Dai, una si è riuscita a farla, vero? Brava. Veramente una domanda clou. Perché dico una domanda clou? Perché le linee guida americane e europee hanno introdotto il PPI test. Che diavolo è? In pratica è una cosa banalissima. Uno prende un inibitore della pompa, della pompa protonica, classico metrazolo. Se l'ometrazolo fa del bene al paziente, vuol dire che si tratta del flusso gas esofageo. Quindi in teoria questi farmaci vanno benissimo per la malattia del flusso. Questo però avveniva prima dell'avvento del famoso Helicobacter. Sarò breve. La prima cosa da fare in qualunque tipo di sintomatologia è sempre testare, prima di dare questo tipo di farmaci, la presenza di questo batterio. Questo batterio è collegato anche alla malattia del flusso gastroesofageo ed è collegato purtroppo all'incidenza di cancro. Quindi caso A, caso B, il batterio non c'è, bene, si iniziano con inibitori della pompa a basso dosaggio, non si devono assolutamente prendere per tutta la vita. La malattia del flusso gastroesofageo non è un diabete, non è un'ipertensione, è assolutamente sconsigliato prendere questi farmaci per tutta la vita, si prendono per 6, 12, 18 mesi. Quindi a cicli di 6 mesi e si interferisce innanzitutto in maniera fondamentale sulla dieta e sullo stile di vita. Nel momento in cui il caso B ci fosse l'Helicobacter, si fa prima la terapia radicante e dopo la terapia radicante, dopo essersi accertati che questo batterio non c'è più, con un test non invasivo come il test sul respiro, come un test sulle feci, avevamo detto altre volte che c'è la nostra, sono adesso reperibili in farmacia. C'è la nostra puntata col professor Vaira in archivio. Dopodiché possono assumere questi benedetti farmaci contro il flusso, che sono fondamentalmente la grande famiglia degli inibitori della pompa protonica, al più basso dosaggio possibile. Quindi mi sembra mosse molto semplici di fronte a questi sintomi chiari come il bruciore, l'acidità, il ritorno su del cibo, oppure sintomi più atipici, ne abbiamo elencate, forse ne abbiamo dimenticato qualcuno perché sono così tanti e diversi. La prima mossa è comunque andare a scovare l'Helicobacter. Se c'è, si eradica l'Helicobacter e poi si procede per la cura del reflusso. Ma attenzione, non leghiamoci per tutta la vita ai farmaci. Si fanno dei cicli di terapia che poi vengono sospesi e nel frattempo si dovrebbe cercare di correggere un po' lo stile di vita. I farmaci non fanno mai bene a nessuno, né ai dottori né ai pazienti. Quando siamo costretti a prenderli e quindi abbiamo delle patologie sistemiche, scompenso di cuore, diabete, ipertensione, e allora ubi maior minor cessat. Ma nel caso in cui abbiamo una patologia, ringraziando il cielo, benigna e cronica, meno farmaci prendiamo, più stiamo bene. Quindi utilizziamo per esempio gli antiacidi invece della classe degli inibitori della pompa protonica, che sono dei farmaci di serie A, ma che ovviamente vengano metabolizzati in maniera massiva dal filtro epatico, dal filtro renale, dal filtro splenico. Professor Vaira, abbiamo di recente fatto una puntata con il professor Manfredini che ci ha spiegato che la cronobiologia studia anche il momento migliore di assunzione del farmaco perché vada proprio a essere efficace lì nel momento giusto e preciso. E quindi questo permette non solo di avere una maggiore risposta, ma soprattutto a consumare anche meno farmaci. Per gli antiacidi ci sono delle regole? Per gli antiacidi si danno dopo i pasti, mentre gli inibitori si dà sempre al mattino 30 minuti prima della colazione. Quindi a digiuno. Mai alla sera e mai a stomaco pieno. Completamente, ripeto, il discorso per gli antiacidi invece che si danno classicamente dopo i pasti. E noi andiamo, Deborah, vogliamo? Da Agnese, provincia di Vicenza, che torna sulla tosse. Agnese, benvenuta. Buongiorno. Sarà breve, spero perlomeno di essere. Ma no, se la prenda con calma. Per Nicoletta e Deborah, siete fantastiche. E quando vi ho sentito all'inizio assieme ho detto non scommetto che possa esserci questo abbinamento. Siete splendide come se foste state sempre assieme. Che prima non eravamo in onda insieme, ma più o meno qua dietro le quinte ci frequentavamo un po', Agnese. Grazie. Abbiamo una nuova terapia. e poi siete splendide perché non vi scavalcate mai, non siete invadenti, non... ecco, vabbè. Grazie. Così, se no mi confondo io. Aspetti Agnese, che il professor Vaira però ha puntualizzato una cosa. Ho detto che abbiamo la nuova Terme Louise. Esatto. Agnese, ecco. Ci dica tutto. Ok, buongiorno dottore Vaira, credo di aver capito bene, sì, il suo cognome. Dunque, io è da 3 anni che sto veramente tribolando. Avevo cominciato con la diagnosi di reflusso gastroesofageo dal mio medico curante, per cui sono andata avanti anche perché avevo parecchia acidità, ma mai reflusso. Dopo 1 anno e mezzo ho continuato ad avere tosse e mi aveva dato un inibitore di pompa, no? E stavo un po' meglio per quanto riguarda l'acidità, però la tosse era veramente insopportabile. Sono arrivata alla broncoscopia, alla TAC toracica e sono risultate delle bronchettasie. Quindi ora io dopo 3 anni ho tosse e catarro a non finire, però non riusciamo a capire se vado dall'openomologo è un problema di gastro è un po' come è successo al nostro ascoltatore, sì, di prima, Agnese, sì, esatto, il palleggiamento, ecco, sì. Ma lei è arrivata perché il professor Vaira che dice? Dico che una volta tanto non è colpa del professor Vaira. Ma no, dai, com'è possibile? Allora, se in effetti c'è una diagnosi di bronchettasia che significa una rottura degli alveoli, allora, a parte gli scherzi, la componente preponderante è di tipo pneumologico. Quindi sicuramente c'è un po' di riflusso, ma questa tosse al 75% è dovuta al fatto che i poveri alveoli non riescono più a traspirare, quindi a fare lo scambio di ossigeno, detto in parole povere. Non c'è ombra di dubbio che anche un filo di reflussino non fa altro che peggiorare questo tipo di situazione. Quindi ancora una volta purtroppo bisognerebbe chiedere alla signora il peso, l'età, se prende altre medicine, perché per esempio tutti quelli che prendono malattie sistemiche in cui sono costretti a prendere degli altri medicinali, una per tutta la fibrillazione atriale, no? Sì. I famosi anticoagulanti, la famosa aspirinetta, ovviamente povere persone hanno una più alta possibilità per predisposizione al reflusso. Quindi perché ci sono anche delle terapie favorenti il reflusso? Purtroppo sì, non è che sono favorenti, quello che dicevamo poc'anzi, sì, tutti i farmaci vanno presi solo se sono strettamente necessari, perché è ovvio che fanno bene da una parte e tolgono e dall'altra, la coperta è quella lì. Professor Vaira, vogliamo parlare dei bambini? Ce lo chiede Roberto, perché anche i bambini piccoli possono avere un po' di reflusso? Sì, non li aggrediamo i bambini, accarezziamoli, coccoliamoli, portiamoli il meno possibile dai medici. Non li medicalizziamo, quindi utilizziamo non farmaci ma dei banali antiacidi, utilizziamo l'assunzione di acqua, utilizziamo l'assunzione di una dieta appropriata, ma possibilmente teniamo i bambini, ma anche gli adulti, lontani dai vari professor Vaira. Questo è il messaggio, ma professor Vaira, mi trovo assolutamente concorde, ma professore, di fronte ad un bambino che è piccolo, che manifesta questo disturbo, è un disturbo transitorio, quali sono perlomeno i segnali che devono far capire alla mamma e al papà, invece, contrariamente a quello che lei diceva, di recarsi dal medico e parlarne con il medico curante? Assolutamente sì, ma il 90% sono disturbi transitori. Temporanei, transitori. Quindi noi siamo, sinceramente è una cosa molto rara che un povero piccolino abbia qualcosa di maledettamente serio, al contrario dell'adulto, perché per l'amor di Dio, la malattia del reflusso gastroesofageo, come voi giustamente sottolineate, se non curata, certo che può dare dei danni gravissimi all'esofago, gravissimi in termini di evoluzione in brutte malattie, che non succede nei bambini. Ecco, questo lo sottolineiamo, così rassicuriamo i genitori all'ascolto. Abbiamo ancora da Udine Elisabetta che ci chiama e poi professore un'Elisabetta altra e non ci manda un messaggio per chiederci di parlare di un tema di cui avevamo accennato, mi ricordo, in una puntata quando ero senza Deborah, l'acalasia del cardias. Lei ci scrive che è stata 10 anni senza sapere cosa aveva e magari serve a qualcuno, potrebbe trovarsi nella sua situazione. Ma andiamo prima da Elisabetta da Udine. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie intanto dell'opportunità. Io intanto dalla voce molto giovane, Elisabetta. Esattamente, io ho 29 anni e purtroppo soffro di esofagite da reflusso cronica. Per cui, insomma, magari a me brucia, diciamo così, più degli altri perché ho solo 29 anni. E, io volevo fare una domanda al dottore. Professor Vaira, sì. Riguardo? Riguardo appunto all'assunzione di farmaci per evitare questi problemi. E io ho fatto un periodo in cui prendevo del Gaviscon Advance perché stavo allattando, per cui non potevo prendere altri farmaci. Finito l'allattamento sono passata al pantoprazolo perché purtroppo smettendo col Gaviscon qualcos'altro dovevo prendere. Effettivamente io sono una persona per cui non sono asintomatica, nel senso che qualche volta ho delle fitte toraciche oppure ho delle palpitazioni o cose simili, però effettivamente non ho bruciore di stomaco. Sì, a quelli che vengono definiti sintomi atipici, immagino esatto. Che per prendere tutti questi farmaci lei abbia ricevuto una diagnosi. Concludendo, Elisabetta, che cosa vuole chiedere? Concludendo, volevo capire effettivamente se a questo punto, essendo asintomatica, posso magari continuare con il Gaviscon, che mi pareva una cosa un po' più leggera, piuttosto che continuare con un pantoprazolo. Ecco, riguardo ai farmaci, il professor Vaira ha già dato le sue indicazioni in modo molto chiaro, che non devono essere una terapia cronica vita, ma professor Vaira, Elisabetta può avere un'indicazione in più? È non inibitore, è inutile dire che ovviamente la gravidanza aumenta moltissimo il reflusso, lì c'è un aumento di pressione intraaddominale, è la stessa cosa dell'obesità, è come se qualcuno con una spallata tenta di aprirci la porta di casa, esattamente questa è la metafora del draghetto che sputa fuoco su per l'esofago, questa è l'idea. Allora, yoga e nuoto per il reflusso sono serviti molto a Valentina da Gallarate. Professor Vaira, bisognerebbe dedicarci una puntata intera. Quali sono i sintomi di questa calasia del cardias che Elisabetta ci invitava a trattare? È una malattia seria, purtroppo, una malattia maledetta, ringraziando il cielo, molto rara, come se ci fosse una paralisi dell'esofago. Quindi in pratica non c'è più peristalsi. E quindi giustamente non si riesce né a mangiare né a bere. Ecco, si fa sempre più fatica seria. Che il gastroenterologo è in grado naturalmente di diagnosticare. Sì. Quindi una difficoltà a deglutire, a mandare giù, mi raccomando, consultate il vostro medico. Intanto grazie al professor Dino Vaira per essere stato con noi. Auguri anche a lei, professore. Tanti auguri, grazie, professore. Grazie a tutti voi. Ottimo, noi torniamo domani, promesso a tutti gli ascoltatori che ci accolgono sempre così volentieri. Insieme a Carmelo Lauricella, in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi e a Marco Lombardo. Noi ci sentiamo domani alle 11. Buona giornata a tutti. Cuore e denari.